I feel just like the eagle, free in the sky, chained to his land, spread his wings to haunt his prey. From the mountains high to desert sand, from way up high he sees a victim, the rebel's name. He's gonna die without fear or hesitation. He swoops down from out of the sky. There's no escape from the eagle. You always got to be aware what he thinks of way up high. The golden eagle waits in the air. All by myself, but I'm free. In this land, never ending, liberty. I look for the water and I cry. I'm just like the eagle in the sky. I look for the water and I cry. I'm just like the eagle in the sky. Other birds seeking his land, but the golden eagle he commands. Respected by other birds of prey, he controls and shows the way. There's no escape from the eagle. He always got to be aware what it thinks of way up high. The golden eagle waits in the air. All by myself, I'm alone, but I'm free. In this land, never ending, how liberty. Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospite la Wild Shooter Band. Con voi, con loro ascolteremo, come già detto prima, sei brani del CD Inside, come primo che andate in onda. Titolo? The Golden Eagle. La vostra esperienza durante le incisioni per questo disco e quali le idee che lo hanno realizzato? So che avete collaborato con un produttore americano di Nashville. Sì, appunto, David Bechtel, grande professionista, che ha trasformato le nostre buone idee in ottime. In particolar modo volevo ricordare, proprio su Golden Eagle che abbiamo appena ascoltato, il pezzo era presente sul nostro primo CD, se si pensa che era il nostro primo singolo ufficiale. Beh, lui lo ha plasmato nel modo che abbiamo potuto ascoltare, con queste grandi sonorità south, con le steel, e lo ha reso, diciamo, un pezzo unico, ecco. La prossima canzone per i nostri ascoltatori: Sexy Thing. We'll be right back. Sempre con la Wild Shooter Band, recensioni musicali su carta stampata e web, quali le più importanti, che cosa dicono sul del vostro album, in particolar modo cosa i recensori hanno apprezzato o criticato. Guarda, noi abbiamo avuto la fortuna di avere molte recensioni, anche perché in questo momento con questo album siamo sotto contratto con la Rebel Records, con l'etichetta che ci consente di avere più visibilità. Quindi abbiamo avuto molte recensioni sia dal web che di carta stampata. La cosa più piacevole, diciamo, che abbiamo ricevuto è che il magazine, che vanno un pochettino borderline o un po' fuori il nostro genere, hanno avuto apprezzamenti positivi. Questo per noi è molto importante, cioè vuol dire che comunque è un album che si fa scorrere, si fa ad ascoltare, e questa è una cosa fondamentale. Non nascondiamo che abbiamo anche avuto delle revisioni con un po' di perplessità, ma credo sia anche un po' normali, nel senso che ci viene detto di non aver creato nulla di nuovo. Beh, insomma, diciamo, nel 2012 cercare di fare un po' di musica americana, ma non solo nel nostro genere, credo che oggi sia un po' difficile, ma soprattutto la cosa, credo che il qualcosa di nuovo non vada visto ed ascoltato solo attraverso un rapido ascolto dell'album in prima presa o al massimo in seconda. Tutte le canzoni che abbiamo ascoltato noi finora avevano un qualcosa di dietro, dietro quello che era il semplice primo ascolto, ed è personale, è una cultura che sta dietro. Noi abbiamo cercato di fare questo, crediamo che all'interno e dietro un secondo, un terzo ascolto più approfondito ci sia qualcosa di valido. Sicuramente le cose più importanti che abbiamo ricevuto come pareri positivi, grazie anche all'aiuto appunto di Dave, sono un'ottima sonorità dell'album, questo lo dobbiamo riconoscere assolutamente, insomma per noi è un grande è un grande piacere dirlo, perché lavorare con Dave e lavorare a Nashville fa mettere nel loro mondo un lavoro, e esce veramente insomma un misto di altro anche a volte, no? L'album è un album che si fa scorrere, che rispecchia le sonorità americane, e questo per noi era il principale obiettivo. Noi abbiamo lavorato molto sull'inglese e su queste sonorità, essendo poi italiani, quindi dobbiamo fare forse il doppio del lavoro rispetto a loro. E quindi aver ricevuto una cosa positiva in questo per noi era la cosa più importante. Prossima canzone? Prossima canzone, Round Around. Torneremo breve per la quarta parte di Rock Legends con la Wilder Shooter Band. Turn right around.